Ma quindi mi stai dicendo che ha allo studio una sorta di Viagra rosa? I tentativi sono stati già fatti, a dire la verità. Il Viagra è una molecola potentissima, estremamente efficace, ma il suo funzionamento nella donna, che non solo c'è, ma non può non esserci, non viene interpretato, diciamo, non viene letto con la stessa valenza con cui appunto viene letto quello nel maschio. In altre parole, per essere molto chiaro, il Viagra è un farmaco vasoattivo. Nel maschio provoca l'erezione, nella femmina provoca un aumento della lubrificazione, il quale aumento della lubrificazione è tutt'altro che percepito con la stessa importanza con cui viene percepita per l'appunto l'aumento dell'erezione nel maschio. Quindi è la lettura che è differente, ma non il funzionamento. Ecco, ma quindi il famoso Viagra rosa di cui i giornalisti, i colleghi, ma anche tanti medici poi favoleggiano ogni tanto, sarebbe una molecola probabilmente completamente diversa, perché lei dice andiamo a interferire con schemi comportamentali più, come dire, è una cosa più legata ai neurotrasmettitori, forse che a questioni di idraulica, Proprio come. così, questo è siccome il livello di complessità del sistema femminile è più elevato rispetto a quello maschile, che riposa su una dimensione molto più meccanica, è evidente che per ottenere un effetto clinico che sia sovrapponibile a quello del potentissimo Viagra, bisogna passare attraverso un filtro che è il filtro centrale, cioè il filtro del cervello, diciamo così.